Paolini, siamo all'undicesima puntata, precisamente a pagina 111 che si intitola Nei pressi del Nilo. Nilo, sì. Immagino che sarà la fuga in Egitto. Diciamo, e quando sono loro sono già arrivati in Egitto. Molto bene, a te la parola, Don Andrea. Bene, allora, in effetti, anche se sono passati 15 giorni, noi abbiamo visto un po' il momento della fuga quando loro scappano da Betlemme verso l'Egitto, e invece in questo capitolo dodicesimo, che intitolo Nei pressi del Nilo, cerco di immaginarmi quale che può essere stata la loro vita lì in Egitto e anche soprattutto i loro sentimenti, le loro difficoltà e un po' come questo amore di Giuseppe Di Maria li rafforza e li aiuta anche in quel tipo di difficoltà che hanno avuto in quella terra straniera. Ecco, chi è che parla all'inizio? Inizio parla Giuseppe e ho intitolato così il suo paragrafo Le spiegazioni di Maria e della Scrittura. Molto bene, a te la parola. Arrivai in Egitto con il ricordo della storia di Abramo, che mi ossessionava. Era finito in Egitto a causa di una carestia, questo è il capitolo ancora dodicesimo della Genesi, e immaginando che la bellezza di sua moglie Sarai avrebbe attirato l'attenzione degli egiziani, le disse di presentarsi come sua sorella, temendo che lo uccidessero per rubargli la moglie. Così lei finì tra le mogli del faraone, il quale poi si accorse dell'inganno a causa dei guai che Dio mandò sulla sua casa, e per quello allontanò Abramo e Sarai senza fare loro del male. Non mi era mai piaciuta quella storia perché non mi piacciono le menzogne e gli inganni, neanche a fin di bene, e tantomeno l'idea di salvarsi la vita lasciando la moglie in balia dei potenti. Lo dissi a Maria, non ti lascerò in mano dei violenti, perciò mettiti un velo, nasconditi il volto, anche se so che basterebbero i tuoi occhi per affascinare chiunque. Tuo figlio e io ti proteggeremo. Gli angeli che ci hanno parlato nelle notti ti nasconderanno agli occhi dei malvagi. Così dicendo e così pensando, stringevo il nodoso bastone a cui mi appoggiavo, che poteva ben servire anche come arma di difesa. Ecco, io quando pensando al bastone con cui San Giuseppe viene sempre illustrato spesso, no, nei quadri, che poi forse fa riferimento a un famoso racconto di un Vangelo apocrifo in cui questo bastone fiorì come quando lui era lì nel tempio, come scelta che lui doveva essere lo sposo di Maria. Ecco, io questa storia non la accollo, ma invece penso che il bastone possa significare, ecco, intanto che Giuseppe aveva bisogno di appoggiarsi perché il peso sulle sue spalle, questa vicenda, portare Maria e Gesù in salvezza, no? Lungo tutta la vita era importante, e poi dopo in qualche modo lui era anche forte e poteva questo bastone aiutarlo anche come arma di difesa, appunto, per esempio nella fuga in Egitto, nel deserto. Ecco, sul mio desiderio di dire sempre la verità, dovetti cedere rispetto al mio rigore giovanile e riconoscere che per proteggere il bambino e tutta la famiglia non potevo dire tutta la verità né il vero motivo per cui eravamo lì. Cercavamo di non parlare, contando sull'indifferenza nei confronti degli stranieri, sul disprezzo per la nostra condizione di esuli. Ma se qualcuno domandava, allora dicevamo di aver avuto problemi in famiglia e sul lavoro, che eravamo venuti a cercare fortuna qui, nella terra fertile del fiume Nilo. Parlavamo di Nazareth e non citavamo mai Betlemme o la Giudea come luogo di provenienza, perché cercavano di evitare di citare quella terra perché, ecco, poi dopo lo si capisce, no? Perché arriverà la voce della strage degli innocenti. Per fortuna avevamo con noi loro che ci avevano regalato i magi. Ci servì per iniziare la nostra vita lì. Una casa poteva fare anche da bottega per cominciare. La mia abilità sul lavoro si fece notare, tutti avevano bisogno di un artigiano per aggiustare e per costruire. Intanto Gesù cresceva, furono anni belli, anche se mai del tutto sereni. Ogni volto sconosciuto che ci scrutava ci impauriva, ogni cliente della bottega che faceva troppe domande ci insospettiva. Cercammo di imparare presto la loro lingua, la loro inflessione, per mimetizzarci il più possibile. Ogni tanto mi sorprendevo a meditare. Com'era possibile che la vita di quel figlio dell'Altissimo fosse già nei primi anni costellata di prove e di pericoli, la nostra con lui? Chiedevo all'Altissimo, perché? Qual è il tuo volere? Poi ritornavo alle spiegazioni che Maria mi dava e ai passi della scrittura che cercavamo di capire parlando tra noi quando si faceva sera. Ecco, a me piace pensare che appunto senz'altro Maria aiutava Giuseppe, così come altre volte Giuseppe aiutava Maria in tanti modi, con discorsi di rassicurazione e anche che utilizzavano molto la scrittura che loro conoscevano. Ed è bello anche questo, io penso anche per tutti noi e poi per i coniugi cristiani che conoscono la scrittura, quando c'è qualche vicenda della loro vita di famiglia, anche della loro storia d'amore che si complica, ecco, poter attingere alla scrittura chiedendo aiuto allo Spirito Santo, evidentemente leggendola, meditandola, per riuscire a, perché la scrittura ci può dare sempre molte luci per capire quello che ci sta succedendo. Ma dovevo tornarci su con il cuore continuamente, non erano mai acquisite una volta per sempre, anche questa è una saggezza che noi stessi sperimentiamo, no? Che abbiamo bisogno di ascoltare la scrittura, di leggerla e di meditarla spesso, anche quelle cose che ci hanno convinto, che ci hanno illuminato, che ci hanno fatto capire qualcosa, poi abbiamo bisogno di rileggerle e di rimeditarle. Ci raggiunsero le voci della strage dei bambini nei dintorni di Betlemme e fu un durissimo colpo, rimanemmo storditi. Conoscevamo tanti di quei bambini, Maria aveva aiutato diverse donne di Betlemme a partorire, erano come i suoi figli, sentiva dentro di sé tutto il dolore di quelle madri inconsolabili. Evidentemente noi nel descrivere questo libro, ecco, mi è venuto in mente, no, di mettere l'accento su questa possibilità, no, che loro abbiano, perché le voci, anche se allora erano mezzi diversi da quelli nostri, comunque però le voci poi arrivavano con più ritardo, ma arrivavano delle cose importanti che succedevano. E io mi immagino appunto il loro dolore, questa storia di Giuseppe e di Maria che hanno vissuto anche questo dolore di altri, hanno poi vissuto i dolori loro, ma hanno partecipato con grande empatia, con grande sensibilità al dolore delle persone che conoscevano, ci può aiutare quando effettivamente può capitare, no, di avere nelle proprie parentele, nella propria città, nelle proprie conoscenze, che avvengono qualche fatti di dolore, no? Morti improvvise oppure incomprensibili dal punto di vista umano. No? Allora, sia Maria che Giuseppe hanno vissuto quel dramma, hanno sofferto, così come poi anche a noi capita. Eravamo anche preoccupatissimi per la sorte di Giovannino, il figlio di Elisabetta, perché la notizia era che Erode si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, no? Per cui il piccolo Giovanni aveva solo 6 mesi più di Gesù e quindi era sicuramente nell'ambito di quei bambini e quindi temono per la sua sorte. E sappiamo che c'è anche una tradizione che quando si va ad Aincari, no, c'è quella pietra dove fu nascosto il piccolo Giovanni, ecco, per essere salvato da questa violenza, no, dei sicari di Erode. Gesù aveva perso in un solo giorno tutti i suoi coetanei di Giudea, tutti i suoi futuri compagni di giochi. Fu durissima la lotta per evitare di sentirsi in colpa per tutto quel male, per averli in qualche misura provocato noi. Anche questa è una tentazione che può capitare anche a noi, no? Quando c'è qualche dramma, ecco, di sentirci in colpa, vediamo in questi casi anche fidarci molto della provvidenza divina che tutto vede, che tutto orienta anche al bene e anche al male. Il tentatore provava a toglierci la pace in modo continuo e violento, noi lo vincevamo confidandoci a vicenda, consolandoci nell'amore reciproco, ammirando Gesù, bambino, vivo e vivace, salvato nei pressi delle acque del Nilo come Mosè, bambino. Quindi questo la conoscenza della sua storia sacra e della storia del popolo eletto aiutava Giuseppe Maria a vedere Gesù come nuovo Mosè salvato. E comprendevamo che doveva essere lui il nuovo Mosè che avrebbe salvato il suo popolo. Capivamo che contro di lui si sarebbe accanito il serpente antico, ma sapevamo anche che la donna promessa da Dio nella Genesi gli avrebbe schiacciato il capo. Ci arrivò la notizia che Erode aveva fatto uccidere addirittura il figlio Antipatro. Erode era uno che per mantenere il potere non badava ad uccidere anche i suoi parenti più stretti. Poco dopo venimmo a sapere della morte di Erode. Quella notizia allentò un poco la nostra tensione e ci aprì la speranza di ricevere presto indicazioni dal cielo. E ci ricordiamo che loro sono in Egitto sulla base di una indicazione di un angelo che è apparso in sogno a Giuseppe, quindi aspettano un'indicazione per muoversi. Grati a Dio che ci aveva protetti fino a quel momento, ci preparavamo di nuovo a partire, a cambiare casa, a tornare a parlare liberamente la nostra lingua, io a ricominciare da capo il mio lavoro. E sicuramente questo è comunque un cambiamento che anche ha in sé delle fatiche. Con l'amore di Maria e di Gesù sopportavo le fatiche con gioia. Bellissimo. Ecco, allora qui finisce la testimonianza di Giuseppe e sicuramente molti genitori, papà, insomma, si possono ritrovare, no? Quante volte con l'amore della moglie e dei figli li aiuta a sopportare con gioia le fatiche del lavoro. Certo. Ecco, Maria quindi comincia la sua testimonianza su questa fase della loro vita nel mio libro che io intitolo Mi guardò con un amore infinito. Maria dice, cercavo di sostenere Giuseppe in tutti i modi, sapevo che per lui era più dura che per me, perché per il suo lavoro doveva intrattenere rapporti con persone di un popolo diverso e con un'altra lingua. Il suo ruolo di capofamiglia lo teneva in tensione per cercare di difendere me e il bambino. Gli dicevo, se l'angelo ci ha aiutato a fuggire, ci darà ogni altro aiuto, Dio proteggerà suo figlio. E intessevo relazioni con le donne della zona, le aiutavo a partorire. In quel modo entravo nelle loro case e nei loro cuori. E ci ripagavano in natura, con cibo e vestiti. Questo consolava Giuseppe e gli dava un po' di sicurezza. Un giorno mi accorsi che si era alzato quando ancora non era mattino. Lo raggiunsi, scrutava l'orizzonte. Lo osservai teneramente e gli chiesi, che fai? Giuseppe si voltò verso di me e mi guardò con un amore infinito e mi rispose, niente, guardavo la stella del mattino e pensavo a te. E sorridendomi mi invitava a volgere lo sguardo a quella luce solitaria e meravigliosa nel cielo dove l'oscurità stava per lasciare spazio all'aurora. Ci abbracciammo e sentimmo fortissima la presenza dello Spirito Santo. Bello, bello. È bello, no? Quindi di fantasia mia, ma comunque è bello vedere come, cioè, ecco, l'amore tra Maria e Giuseppe e gli rende molto vicini. È un libro ispirato. La presenza di Dio, ringrazio. Dopo la notizia della morte di Erode, cominciai segretamente a radunare le nostre cose. Eravamo pronti a partire. Pensavamo che fosse conveniente aspettare un po' per non dare motivo di collegare troppo strettamente la nostra partenza con quella notizia. Invece l'angelo comparve in sogno a Giuseppe abbastanza presto e lui si alzò, mi svegliò e partimmo, sempre di notte, così da non dover dare spiegazioni a nessuno. L'angelo gli aveva detto, alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Ecco, mi sembra, in qualche volta mi sembra scrivendo queste cose di scrivere un po' una specie di libro giallo, però è vero che loro avevano la tensione di essere un po' ricercati da Erode, quindi avevano, mi immagino io, anche tutte queste attenzioni, ecco, cerchiamo di fare in modo che nessuno se ne accorga, no? di questo collegamento di noi con la strage di Betlemme e anche con la morte di Erode. Ah, altro che libro giallo! Molto meglio, no? Molto più bello. L'indicazione era carica di significato, ma generica in quanto al luogo. Cioè l'angelo dice, prendi con te il bambino, se no te fai nella terra di Israele, non è che dice in una città. Allora, avvicinandoci ci dicevamo, dove andiamo? E a me piace molto questa parte della vita di Giuseppe di Maria, perché insieme all'indicazione di Dio, che è generica, perché vuole anche che loro, come capita spesso anche con noi, intervengano con la loro libertà, la loro fantasia, il loro pensiero, ma anche la loro intelligenza, no? Vedere qual è il luogo migliore dove andare. E loro ragionano. A Betlemme avevamo una casa, anche se ignoravamo che fine avesse fatto dopo la nostra partenza. Non sapevamo cosa dicessero di noi, che eravamo scomparsi poco prima della strage. Forse avevano collegato i due fatti, quindi non saremmo stati al sicuro. A Betlemme ci avrebbero riconosciuti. E qui apro le virgolette con un discorso diretto di Maria a Giuseppe. Giuseppe, andiamo dove ci pare meglio. Dio ci lascia liberi come siamo sempre stati. Per questo non ci dà indicazioni. Gli piace che costruiamo con suo figlio una storia vera, fatta di decisioni nostre. Io sono con te. Anch'io non mi fido, staremo più sicuri a Nazareth. Manchiamo ormai da alcuni anni, non sanno più niente di noi, racconteremo quello che vogliamo, ci lasceranno in pace. Giuseppe non era convinto. Ecco, io mi dico, quando faccio alcune presentazioni di questo libro, che adesso ne ho fatte due in Sicilia, che ero lì per un po' di vacanza, e allora qualcuno mi ha detto, ma tu metti qualche litigio tra Maria e Giuseppe? E io dico, beh, veramente proprio litigi no. Però, perché non me la sento, non mi immagino che l'ho indicato. Però questa è invece una discussione in cui non sono subito d'accordo, no? Giuseppe non era convinto, sentiva la responsabilità della scelta, ci voleva pensare, voleva pregare, si è affezionato al progetto divino che aveva voluto far nascere a Betlemme di Giudea, secondo le scritture, il figlio dell'Altissimo, e diceva, forse questi sono timori nostri, forse Dio vuole proprio che cresca a Betlemme, dove è nato, perché la gente abbia in futuro più facilità a credere alla sua origine divina quando la rivelerà. C'erano tutte le profezie, ecco, che poi che conosciamo. Allora io, dice Maria, io invocai lo Spirito Santo e gli chiesi un'ispirazione, un argomento valido per Giuseppe, così appassionato delle scritture. A me piace pensare che a volte anche tra marito e moglie, ma anche a volte tra amici, colleghi, così, persone che stanno unite in fraternità, nella Chiesa, qualche volta più che continuare a discutere si tratta poi a un certo punto di pregare lo Spirito Santo, no? Perché illumini, e in questo caso mi immagino che Maria abbia fatto così, e poi effettivamente lo Spirito Santo ha risposto. Mi ricordai di quello che l'angelo del Signore, cioè Maria prega lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo le fa ricordare una profezia, che l'angelo del Signore aveva detto alla madre di Sansone: il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. E Giuseppe ne fu colpito. Nazireo significa consacrato a Dio, non vuol dire abitante di Nazareth, ma l'assonanza è molto forte. A quel punto Giuseppe aggiunse, ti ricordi Maria quel passo di Isaia, cioè gli mette un'altra frase della scrittura che noi conosciamo bene perché spesso la citiamo nella liturgia: un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore, si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra, Isaia 11:1-4. E Giuseppe si ricorda di questa citazione e commenta così: Jesse è il padre di Davide, no? la radice di Jesse, il germoglio, no? Le radici di Jesse potremmo essere noi, e se il virgulto è nostro figlio, che meraviglie avrà e compirà. Quindi sta pensando qui, il profeta parla di Gesù. E germoglio in ebraico è Nezer. Isaia ci dà un nome di Gesù che è nascosto tra le scritture, no? Germoglio. Bellissimo. E allora Maria Quindi ha dato un suggerimento così su un Nazireo che suonava con Nazareth. Giuseppe si ricorda di germoglio che si dice Nazareth. E Maria dice: ero commossa di notare come lo Spirito Santo ricordasse a Giuseppe passi delle scritture che si riferivano a noi. E nel vedere come lui, uomo, che si sentiva capo della famiglia e capo della donna, come si diceva a quel tempo, fosse capace di darmi retta, di seguirmi nel pensiero. E così partiva un dialogo che ci arricchiva sempre. Sapevamo da dove iniziava, ma il punto d'arrivo era sempre una novità, che è una sorpresa per entrambi. Ma questo, insomma, è bellissimo quando tra amici, tra parenti, tra conoscenti e soprattutto tra mente e moglie si riesce a dialogare, anche tra genitori e figli, si riesce a dialogare tra lui e cioè, a dialogare così, no? E in cui il dialogo è rispettoso e aperto. In quel caso, camminando, avevamo tempo per parlare senza fretta, non avevamo più l'angoscia della fuga. Lui non aveva da correre in bottega o da consegnare opere ai clienti, era tutto per me e per Gesù, Giuseppe. No? Maria ha nostalgia un po' di quel viaggio, diciamo, lui metto un po' dentro a sé la sensibilità femminile, no? Di Maria, che come donna sempre con le donne hanno molto piacere, ecco, di poter parlare, di poter stare col marito anche a lungo e di poter, ecco, sì, scambiarsi tante parole, tante idee. No? Negli anni successivi, e quindi come dire che i mariti si mettono a disposizione, no, anche di questi dialoghi, negli anni successivi mi ritrovai a volte ad avere nostalgia di quelle lunghe giornate passate insieme a ragionare di Dio e della storia, delle scritture e di noi, con il desiderio di guardare i tempi con gli occhi di Dio. Anche a me tornò in mente un passo di Maria che si riferiva in modo sorprendente al nostro passato e forse al futuro di Gesù. Il popolo che camminava nelle tenebre, Isaia 9:1, che camminava nelle tenebre, ha visto una grande luce, quindi possono pensare anche alla nascita di Betlemme, gli angeli, i pastori, su coloro che abitavano in terra tenebrosa, infatti noi lo leggiamo a Natale, una luce rifulse, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle hai il potere, il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che gli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Ricordavamo Betlemme, ecco, nel ripensare a questa profezia di Isaia, quella notte di luce, i pastori e ciò che videro e udirono. Le profezie sul nostro figlio ci inondavano di commozione e di sicurezza, pur nelle incertezze della vita. I nomi che il profeta gli dava erano meravigliosi e le prospettive di futuro immense, no? Questi sette nomi, no? che Isaia dà a, in fondo, ecco, a Gesù. No? E, così tra Nezer e Nazireo, Giuseppe si convinse che poteva esserci alle righe della scrittura la profezia che il Messia sarebbe stato Nazareno. Perciò accolse, facendo la sua, la mia proposta di ritornare a Nazareth e lì nasconderci nella normalità della confusione della Galilea, luogo di confine. Ecco, sappiamo, io in questa frase metto dentro un po' di idee che mi piacciono, cioè che da un lato noi siamo abituati a volte nella tradizione a dire, a parlare della vita nascosta di Gesù, no? Perché lui li nasconde rispetto ai suoi compaesani, agli amici e colleghi di lavoro, nasconde la sua natura umana, divina. E, però d'altra parte a me piace anche chiamarla, come anche tanti la chiamano, la vita normale, no? La vita ordinaria, no? Di Gesù questo ci aiuta a considerare la nostra vita ordinaria, normale, questa è una è un tema che piaceva molto, se non mi scrivare, è un aspetto importante nello spirito delle cui dei, certo. La santificazione della vita ordinaria. No? E poi metto insieme anche questo concetto che è molto noto ai biblisti e anche a molti che ormai, che la Galilea è un luogo appunto di confine, quindi anche dai turisti della religione ebraica era considerato un po' impuro perché mescolato con pagani, E in questo senso è significativo il fatto che Gesù abbia voluto abitare lì e anche che abbia voluto tornare lì, questo ritorno in Galilea, no? Dopo la resurrezione, che il Papa Francesco citava come un simbolo del tornare ciascuno di noi all'origine della nostra vocazione per ritrovare certo. La forza e la grazia. Don Andrea, è un libro geniale, secondo me ispirato, hai tirato fuori anche questo qui, se l'ha chiamato Nazareno, hai tirato fuori questo termine che io non conoscevo, che è 50 anni che faccio il prete, Nezer. Quindi grazie infinite, è un libro geniale, ispirato, ripeto, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Andrea Martegan, Edizioni Paoline. Una bella benedizione. Sì, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, ai loro parenti, conoscenti, amici e intenzioni di preghiera, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e su voi rimanga sempre. Amen. Grazie infinite, alla prossima. Grazie. Prega per noi, ricordaci nella messa. Grazie. Senz'altro, grazie a voi. Pronto?